segnale Santiago 8 qua e radio 4 super 4 Santiago 8 e io l'antennino, capito, piccolo. Se mi hai detto che era sempre a fondo scala, mi hai detto. Sì, ma ho spostato un pochettino, quindi ho perso un po' di segnale, la devo rimettere dove era, perché ho provato a metterla in un'altra posizione, se riceveva meglio, ma era meglio prima. A me mi arrivi sparato, mi arrivi. Lo so, sono così, sono attaccato, capito. Troppo. La voce è troppo compressa oppure si capisce tranquillamente, Antu? Guarda, si capisce bene. Capa. Beh, adesso facciamo scaldare i motori, poi vediamo. Ehi, a me adesso ho sentito io. Non credo che ci sia stato nessun altro, perché verso le 5 così avevo chiamato, ma non mi ha risposto nessuno e ho detto forse la gente ancora è presto e non entra. Ciao, fate conto, sono pochi, sono pochi, cioè, vuol dire che sono, cioè, strano, ma tu sei in zona bassa. Guardami, adesso l'ho toccata l'antenna e mi arrivi Santiago 9 adesso, l'ho messa come era prima, capito? 9 pieno. Capa, l'altro giorno dove si affondo scala, bomba. Esatto, io ho messo un pochettino di potenza perché sono penalizzato parecchio dall'antenna, almeno chi mi sente già mi sente un pochettino bene, almeno in città, dai. E più parti della città le ho collegate, capito? E dove sei tu, insomma, la Te Dolce, zone ancora più alte di me, stazione, eccetera, qua, ieri, vabbè, c'è Marco qua vicino, Marco Condor, capito? E ci sentiamo a bomba, infatti. Capo. Adesso tra un po' provo a alzare la potenza. E io mi ero così in casa, stasera verso le 7 devo uscire, mi hanno invitato a cena con i miei figli e quindi ce ne siamo un po' in girella. Cappa, cappa. Senza che prova, ma fa la tattica magica, 2 secondi. Ehi, fai tranquillo Antonio. Hola, Carlo. Carlo, mi senti? A voglia, adesso ti sento ancora meglio. Cappa, adesso com'è il segnale? Adesso ce l'ho fondo scala, capito? Ah no! Hai dato un po' di gas. Sì, adesso ho dato full gas. Ehi, 9 più 20. Già, va bene, dai. E come parli poi va ancora avanti, dai, 9.20, 9.30. Cappa, adesso sono con full gas, sono. È fredda, deve scaldarsi. Già si scalda. Oggi giornata così un po' piove e smette subito, invece se avesse piovuto riempiva un po' i bacini, visto che ci stanno ancora razionando l'acqua, maledetti, capito? L'acqua quando c'era l'hanno buttata a mare per fare la manutenzione, capito? E adesso non ce n'è più nei bacini, sia quello del Fuga che anche nel Bidiginzu. Adesso speriamo che piova ancora in questi giorni e che possa riempire poi i bacini. Anche non l'hai visto che è spiaggiato, io in quelle zone ci sono stato e si vede che è spiaggiato. Perché era tutta l'estate senza piovere e qua ne ha fatto poca in Sardegna, qua a nord. Invece nella zona di Ulvi ha piovuto un po' di più. Ma da ci vuole, dai. E infatti, adesso domani è il giorno di tutti i santi, e con dai, non è che possiamo aspettare belle giornate, del resto siamo quasi a novembre, Anto. Sì, 17:44 mi segna qua, sì, quasi le 6, infatti adesso io mi faccio qualche altro passaggio con te, poi chiudo che mi devo sbarbare, mi faccio una doccia perché poi facciano a prendermi, capito, e me ne esco stanotte a cena fuori. E fai bene, fai bene, fai. Io dovrei staccare un po', sono lavoro dalla mattina alla sera. Giorni che lavoro, dovrei staccare un po' la spina, perché sono come esaurito. E quando puoi, Anto, prenditi il tuo tempo, capito? E dedicati alla famiglia prima di tutto, a stare rilassato e quando hai qualche attimo in più ti dedichi ai tuoi hobby. Tanto nella vita, capito, così devi fare. Capa. Sono solo soletto adesso, capito, ma i miei figli già sono grandi, capito, uno ne ha quasi 30, l'altro ne ha 20, e insomma, già sono grandi avviati, e stanno iniziando a lavorare e quindi sono contento per loro. Purtroppo a me mi è successa una disgrazia, mi è morta mia moglie, e quindi sono rimasto solo. Anzi, non sapevo niente di questa cosa, mi dispiace molto. E come mai? Ma vabbè, magari ne parliamo al telefono, non qua, mi dispiace, non sapevo nulla perché io in radio non stavo più entrando, giusto, ho ripreso da qualche settimana solamente, capito, avevo saputo di Natalino e basta. Già dopo 15 anni adesso che si fa disgrazia, mi sto crescendo un figlio da solo con mia cognata, sono loro la mia, come si dice, cioè, qualche volta mia sorella, quelli che mi sostengono, capito? Cappa, ho capito. Quanto ha adesso tuo figlio? Il 28 novembre compie 3 anni. Caspita, piccolino ancora, dai, però adesso inizia a scarpinare, ormai cammina da solo, ma lo stai mandando all'asilo nido? La materna sta facendo già. Buono, dai, almeno così la mattina ti alleggerisci un pochettino e puoi fare quello che devi fare, insomma, e già è tanto. Se c'hai un aiuto che ti danno una mano, anche quello ben venga. Sì, purtroppo c'è una tragedia già ti spiego in verticale, non è una bella situazione quella che è successa. Anche io già un giorno già ti racconto anche io, poi se ci vediamo magari ci prendiamo un caffè insieme, magari una mattina ci mettiamo d'accordo che sono libero, perché io con i turni a volte c'ho pomeriggi, a volte c'ho sere, capito? Oggi sono di riposo, oggi e domani, e così magari se capita qualche mattina che hai sistemato il bambino ci prendiamo qualcosa assieme, ci facciamo una chiacchierata. Tanto gara che fruscende, avanti. Vi sentite, passo. A voi che ti sentiamo, vieni avanti. Io vi sento molto bassi, per quello non riesco a decifrare le vostre parole. Come, senti basso a me? Certo. A chi sei? Qua pirata da Sorso. Io sono, ma arrivo, cioè, sono Antonio, ma salta forte. Io ti ricevo segnale, mi dà che sei a 5 qua. L'altro giorno mi sentivi perfettamente bene. L'altro giorno eri più potente, oggi sei basso. No, eppure qua tutto a posto. Stazionario a posto, la potenza sta uscendo. Strano. E magari è il tempo qua, sta a me piovendo, magari per quello. Io ti ricevo uguale. No, ma sto parlando con... come si chiama? Ma... adesso non mi viene... con Carlo da Sassari. Chi è Anto? Non lo sento, Pio Pio si sente, ma io non riesco a sentirlo. Luigi, per caso? È l'amico da Sorso, No, no, negativo. Sento basso basso, ma io ho un'antenna precaria e non posso pretendere di arrivare a Sorso. È già tanto che lo sento in sottofondo, però non so se lui riesce a sentirmi. No, no, dove non ti sei. Cazzo di basso a me, è impossibile. Io non c'ho neanche stazionario, non c'ho nulla, è impossibile che non esca io. Io ti sento, però l'altro tuo compagno non lo sento, non so chi sia. Carlo da Sassari. Non lo ricevo a caso, solo a te sto ricevendo. Capo, è già Rugredo, via. Tu sei potente, chissà che strumentazione vai, no, che siamo ancora passi con la strumentazione. E quando ti sto arrivando lì a Sorso? Quasi a 5. A 5, ma buffonendo, Sese. Sì, sì, qua mi dice il segnale che quando arrivi tu arrivi a quasi a 5. Chi sono così, sono cassato, li sono calati 12. E com'è la frequenza allora, bassa o alta? Se ne arrivi a 5? Tu sei 9, sei impossibile. Non lo so, allora sta ricevendo male questa antenna. Boh, strano, ho entrato da Eva, boh. Molto strana la cosa, Che a me l'altro giorno arrivavi più forte, adesso arrivi un po' basso, sì. Qua io ho il segnale che vengo da questo Midland, quasi a 5, quando parli. Boh. Eppure no, che sei 9, sei. E allora c'ho qualche problema, che sto bene e ricevo poco. Ma una cosa tutto aperto ce l'hai. Che cosa? Lo squelch, le balle, il mecchighe, tutto aperto. Adesso l'ho tutto aperto. Ah. Sembra 5. Sì, sì, ti ricevo basso, un po' strano. Oh. O deve andare che trovare a Chiro per ricevere bene, perché va appena acceso. Scappa. Strano questo. Ora, ora. Ragazzo vai. Ora. Ora. Mi sei attaccato il tutto. Stazionare a posto. Ora. Hola, la bicriola. Lancetta qua mi dà 5. Hai detto hai provato in di là la 48, hai detto. Tanto mi stai attaccando tutto. Chi è, chi è? Buonasera, Gian Maria. Ciao Gian Maria, Carlo da questa. Sono in compagnia di Antonio e poi... c'è l'amico di Sorso, non so se è Franco, lo sento basso io, ma sono con l'antenna piccolina. Okay. Buonasera, ben risentito dopo un secolo. È da parecchio che non ti sentivo, già che lo stavo accendendo io. Ma è da parecchio che non ti sentivo, comunque fa piacere. A riposo sei oggi, no? Sì, sì, oggi sono a casa di riposo, oggi e domani. Come ti arrivo lì dalle tue parti? 6-9-5, 6-9-5, la nave è bellissima, pulita e tranquilla. Cappa, eccomi qua. Adesso sei tu. Cappa, com'è la modulazione o l'amico di Sorso? Ciao, arrivi sopra a 5 e tu mi arrivi qua. Cappa, Gian Maria quando ti arriva? Quello non lo sento più basso di te, mi arriva a 3. Ah, allora andiamo a vedere. Cappa, Carlo, molto migliore questa qua. Sì, Anto, la radio più limpida. Adesso sentivo l'amico di Sorso, è qua. Diciamo che come tocca fare, adesso sentivo l'altro passo a passo, sottofondo. Cappa, io sono una modulante. Ok, dai. Ok, vi devo lasciare che vado a preparare la magna. Ci sentiamo. Ciao, ciao, che devo fare una roba a casa. casa. È un attimo, altro che sto chiudendo, che sto sul telefono. Ciao Carlo, ciao amico di Sorso. Benissimo, un grande piacere. Ciao ragazzi, qua privato da Sorso. Ciao Gio, già ci sentiamo, tranquillo. Ciao Antonio e l'amico di Sorso, non so se mi senti. E forse non ti sente, caro. Va bene, da, sarà per la prossima volta. Sento solo a te, passo, quello che si chiama Carlo, non lo sento. Sto facendo anch'io delle cose a casa. Ciao, ciao, ce la sentiamo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, si è chiamato il prossimo, dai. Ok, dai, ci sentiamo. Salutone a tutti, dai. Cato, chi è che mi chiama? Ehi, ascolta, come sei uscito? Bene, Giovanni, ti sento bene io. Che mi sembrava che stavo uscendo male. Vabbè, vai. Ci sentiamo tu, ciao, grazie. Chi era quella di tuo risorso? Non me la ammetto, carina. Amico di Sorso quella. Io sto andando a preparare a mangiare. Ok, ci sentiamo. Va bene, vai, ci sentiamo, presidente, a tu. Prova, 1, 2, 3, prova, prova Mike, 1, 2, 3, prova, prova, prova, in 10, prova M, ora, ora, ora. Bella prova concordata. Bene, va, ora, ora, buon pomeriggio, ciao a tu, San Pedro Sorso. Kappa San B, quando mi copi il segnale? No, prova a parlare a Fede. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tipo 5, però non lo so se lo smitterino mio funziona bene della radio, mi capito? Ok, dai. Dai che devo andare a cucinare, ci sentiamo. E poi magari, cosa ne so, come ha piovuto, eccetera. Però ti sento bene. Avanti, avanti, chi è Aiu? Ti devo lasciare che devo cucinare, ciao ciao. E ya, ciao, ciao Antonio Prussimine, ora ora. Hola, attenzione, canale 10. Hola, canale 10, c'è qualcuno? Camilla Giannini. Vabbè, torri. Ciao, ciao. Bebe. Ehi, cos'è? Sto per tanto che vi intendo. Ma io ci sono tutti i giorni, sei tu che non stai entrando. Indaffarato. Allora, non ti fa. Fare ogni gioco dei zendi. Ho detto che sono da molto che non vi sento. Ah, ecco, se non entri, per forza. Per forza che non mi intendi. No, stiamo entrando ogni sera noi, tutti quanti, capito? Ci siamo ogni sera, infatti io stasera ho dovuto portare il cane prima perché non stava bene e l'ho portato prima, sono entrato adesso per quello. Però sono via, ma che pancia? Di arresto. Il tempo come ha cambiato, ma peccato, fai del roba in asciutto. Ce l'ha la roba asciutta, ma non l'ha mangiato, dove se non se la sente? E voglio, se non se la sente, fagli mangiare erba, che se lo mette a posto. E devo tolta la museruola per farle mangiare un po' di erba, ce l'ha mangiata. Perché non pesca giura a noi, non pesca a bula a Henry così. Ma soldi invece. Quando li fa così vuol dire che il tempo era cattivo. Se l'ha pigliato poi po' d'aria. Perché la roba da mangiare è sempre la stessa, non è che gli ho cambiato nulla. I pasti che gli do sono sempre qui. Non lo so cosa sia successo. E magari è indisposto, non lo so. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Si sente male. Si sente chiuso. Che è? Antonio mio. Ma tu cosa intendi? Della risata. Non mi fa neanche dire il padre. Cosa c'è, Gabriele? Buonasera, amico. Aspetta che ti fa il bagnetto, papà. È buono. Allora, faccio il bagnetto a bambino, faccio. Ce l'ho anche prepotenti. Cosa vuoi fare? Perché non ti piace la musica? Quale musica? Ti ho messo. Ehi, stasera mi piace, mi sa che c'è roba, c'è qualche cosa. Io a mezzanotte e 20 devo andare a prendere a Marco. Sei andato a trovarmi, me l'avevo portato l'antipanico io. Mamma Pogana, no. Anzi, dopo ti faccio sapere, va. E vabbè, io a mezzanotte e 20 devo andare sempre a prendere a Marco, lo devo accompagnare agli punti, la ragazza, e poi accompagnare lui a casa. Via. Certo, non ti piace il mio metal, raga. Fai a casa di Alui. Non sai che c'è musica seria. Questo non mi piace a me. Musicamente è proprio contro le mie abitudini. No, io adoro. Si sente già la brutta, non si comprende nulla, si sente a brutta e buh. Si sente Non si comprende nulla, di cosa? Se in musica sei a brutto. A te non gli piace un casino. Ma quella è roba artistica, non ne comprendi di nulla, come? Io metto, cioè, per provare l'impianto molte volte metto proprio quella, proprio volte, cioè con la musica a palla, a livelli strani. La musica delle mancanti, chissà. Ai anni 50. Che va detto. Noi andiamo, noi andiamo, vabbè. E chi dice che reggia nel bu? Chissà musica è, chissà è urlare bu. Che la sentiamo dopo. Sì, avanti tu. A me io ogni tanto nel telefono l'ascolto i Pink Floyd, dagli Astris, gli Dattri, i Vinedi. Sì, stasera al verde c'è qualcosa, non mi metto che la vedi. Ah, il mio posto. Ah, vabbè, quelle sono musiche, sono cose belle da ascoltare. No, come ti dice Zicchiri, ecco Sampdoria. Ah, io hanno bisogno di subito, diciamo, canari. Allora, a me l'hard rock mi piace, tipo gli AC/DC, ti piacciono? Ma che c'è musica? Faccio un po' di casino, ma è musica, non manco. Ma che date la bruttosi? Ma lavorano molto di batteria, di cose, a me piace per quello. No, le AC/DC sono bravi. Anche gli America, li ascolto. Un sacco di voci. Ce l'ho nel telefono su coso. E si collega e è andato per un mondo. In America io c'ho sia l'LP in concerto che l'LP normale degli America. Io l'altro giorno li stavo ascoltando su Radio 101. Li stavo ascoltando. Metti il RDS che mette musica bella. Anche 101 gli danno, la sera specialmente. Io già ce l'ho tutti nell'Appennina, quelli che mi piacciono me li metto nell'Appennina. Tanto c'è un'Appennina 16K, quindi ti puoi immaginare. No, io ogni andato già pedali, i compagni mi metto, come ti si chiama, Spotify, e ti danno tutte quelle musica. musica rock, un bel tiragine. L'Europa del tiragine. Insomma, di tutti i canti, Pink Floyd, D'Atri, la Puglia. In Europa erano bravi lo stesso. Ce n'erano stati complessi bravi prima. Adesso sono tutti nati in Garriaggi. Sono pensato di chi ma ce n'è uno che sta ancora suonando. Sì, quei ragazzi come si chiamano? Quelli sono bravi, quelli fanno musica di rock. Ci sono dei ragazzini che ne rimane, me ne accortenni. Sono fermo a Praga aspettando che uscisse mia figlia. Quando era cortenne alla radio. Ah, c'era questa ragazza qua che si è accelata a Roma Fone. E mi ha detto, cosa so, gli Europe, sì, ti piacciono moltissimo, me li ascolto anch'io. È rimorchiato. Sì, io se poi c'è la corsa, da voi da dove ho tratto ho cominciato a fare, ma mi tocca da alzare un minestrino. E se n'è andata. Vabbè, sono musiche che gente magari della nostra età piacciono, capito? Anche così, il The Pipe, che ogni tanto è Nintendo, che suona. Di Pipe. Ogni tanto ci vuole i burruetti, ci vuole. Tutte musiche belle fanno. E quello dell'America. Già alla radio già a me ascolto l'attitudine di digitale pensato sì, e coso attinenti alle ma ti si chiama di rock i vecchi che vivevano le sacche ma finisce che ce li ho un pochino di quelli che mi hanno detto che non è bambù come figliura diciamo ma no gira gira non mi piacciono a me niente gente solo nella tradizione va bene dell'era mia era nel magazzino eppure ci sono ragazzi che apprezzano la musica anni 80 l'apprezzano molto la mia figliura l'altra dice che è a Londra ma io sono i viaggiani di la musica strana i corvi a me io sono un ebrazia è tornata da Roma la tua figlia non ci lavora più dove? A Londra sì è sempre a Londra insomma devi già andare a casa allora se devi già andare a casa magari per avvicinarsi anche al luogo di lavoro e questo adesso è più vicino rimane 1500 sterline aria la bagasse d'affitto e sarebbero 1500 sterline quanto equivalgono in euro? In euro sono quasi 1500 euro sono ci manca poco a arrivare 90 euro mi pare che mi mancano ad arrivare che cazzo non si asce sull'affitto la più basso sino a luglio era più basso era le sterline mia figlia a Bologna ne paga 800 euro e lì si sono rialzati parecchio gli affitti sono rialzati parecchio ma è tutto compreso tra luce e acqua sì questa qui è una casa dove vivono in due capito? Quindi se lo divido ci dividono 400 euro a testa quindi non li pesa più di tanto dimmi come prende questa casa qua si trasferisce il ragazzo si trasferisce a chi va a casa minorito Guido però no, si trasferisce da lì è più grande la presa più grande la presa ma il ragazzo è sempre a Londra Voleva venire per Natale, ma ha detto che non vi viene, che è troppo caro. Bisogna beccare il biglietto prima. Emanuela è venuta in nave con la macchina, poi la macchina l'ha lasciata qua, è partita senza macchina, è partita in aereo, perché le conveniva andare in aereo. Sì, mia figlia voleva venire in macchina. Ha detto, catta, mi devo fare roba di... Veramente? 1800 chilometri, se dobbiamo andare. No, per carità. In macchina non conviene. Se può usare i mezzi è meglio. E anche Manuela paga un sacco di soldi in Napoli con la macchina. Vabbè, lì ci voleva venire in macchina, la benzina, è tutto canto, no, ha detto che non ricomprende, ha detto, guarda tu, se ti conviene vieni in aereo, prendi l'aereo e vieni, e te la prendi a noleggio all'aeroporto. Infatti, conviene più così. Se ne conviene così, sì. E poi fa una ghetta a 200 euro. Stanotte con la linea no. No, da noleggio. Vabbè. Purtroppo che di due fuori si deve adattare. Anche a Milano gli affitti sono molto alti. Io amici a Milano, mi hanno detto già, non si può vivere. Tutto caro. Va bene che c'è molti sbocchi di lavoro, perché puoi cambiare da lavoro all'altro, lavoro se ne trova, però a confronto della Sardegna, anche in Sardegna non c'è nulla, però gli affitti sono ben alti. Sì, gli affitti sono ben alti, e ogni base sono ancora più alti. Mi ha trovato una villetta, ci ha trovato ed era 1800 che sono quasi 1800 euro, quasi so. Quando è andata a informarsi l'agenzia, ha detto che l'agenzia no, non ce l'avevano loro. Era una falsità, era. Ah, dovuto ammullare. Che cazzo, devi lavorare per pagarti l'affitto? Oh, già, ce lo può permettere, è entrata in questa ditta, è entrata, e comanda è la comanda, da tutto quanto, le coordinate, tutto quanto, alle... c'è il ragazzo, c'è le ragazze, fa vedere, e dopo è già via. Sani del Zevega, che cosa difficoltoso, deve chiamare al telefono. Quindi non è un lavoro molto stressante, dai. È di responsabilità e basta. E che tipo di lavoro è, dove lavora? Allora, come è entrata, c'è il tipo che l'ha assunta, mi ha fatto un sacco di domande e lei gli ha detto che in pratica voleva vedere chi assumeva e gli ha fatto entrare questi giovani e gli ha fatto vedere come si fa lì, gli ha fatto vedere estetista, chi parrucchiera, chi è cosa, di che bacio. Ognuno ha il suo coso. Sono 10 persone al giorno devono fare questi ragazzi. Sono pagati. E 10 devono fare 10 persone al giorno devono fare. Ogni giorno. E lei a cosa che ci va il martedì e poi ci va il venerdì per vedere come va tutto quanto. E se ci porta quasi 5.000 euro al mese. Che è pagata bene allora. Ah, è un salone di bellezza, dai, un salone dove fanno unghie e tutte queste cose qua. Sì, unghie, capelli, messa in piega, tutto facile, cosa per gli occhi. Si è fatto una specie di diploma che ha dovuto essere per 15 giorni questi ragazzi qua. Di gol, sono 10 ragazzi, insomma, ma troppo come deve ne vediamo a suo modo. Ho capito, lì li deve solo seguire e dargli le coordinate, là. È un centro estetico, là, un centro estetico di bellezza, faccio una video, e se sono pagati così è perché hanno molte entrate. Ma adesso ho pagato i resti, mia figlia quando va? Sempre a ognuno di non sbagliare, le raccomando a perfezione, raccomanda tutti sono abbastanza, anzi ci sono queste comunitari che vogliono entrare a fare quel mestiere lì, è un pregio. Cioè, da mia figlia mi hanno chiesto se poteva entrare e gli ha detto, mia figlia gli ha detto aspettate perché sarà tra a fine mese o a metà novembre che cominceranno a prendere personale, altro personale, perché per Natale lavoreranno fortissimo. Beh, a Natale si accorciano tutti. Quindi sa parlare molto bene l'inglese tuo figlio. Impara a base a farlo far dallo. E piano piano è matricchiente. Andato mi sembra a dirmi che cosa è inglese, ha detto lui, faccia perché te lo dico in tedesco, te lo dico. Magari ne viene male esprimersi nell'altro. No, a Puglia. Ci sono... Adesso ho trovato lì attorno alle amiche sue che erano insieme lavorando con lei, che vogliono entrare lì a lavorare. È molto... di cosa? Mettimi in corso tu, io, comando io, no? Lì comanda il tipo, se gli vai a genio di via, se no, tu manda che tu vai lì. Devi fare una bella impressione, quando vai a fare il colloquio, devi fare una bella impressione, se no ti si manda. E che se? Avanti. Compro il segnale, me lo basta, perché boh, sto notando stasera che sono un po' di carenza di segnale, mi pare che fate, pure stazionario non finne. Ma tu prova, perché io sono senza occhiali, devo guardare bene, da vicino. Oh, due, tre! Uno fa caffè! Anto! A me se a fondo scala, amico! No, pensavo che avevo perso. No. Pensavo che avevo perso, vabbè. Magari anche essendo vicino uno se ne accorgerà, perché tutti mi hanno detto che mi sentivano più basso. Ma lo parli di sempre lo stesso, Anto. Se ne era una bugia se ti riesci più basso. Cappa. Ma dimmi tu questo bambino, è bravo è il tuo pittino. Sì, ma dei gabbicini sui gabbideni. Ma figlio. No, che è bravo, non è, è un mascalzone, è una pilandra. Vabbè, minoretto. Guarda, domani a mangiare tocca a scizzi di subito vitto. Stai andando a fare le doria. Ho capito. È interessante perché ci sia il lavoro da voi, a forza di... Sì. Sì. Domani è uno, devo mettere il mese di novembre. E quella roba là me la devono pagare a novembre, me la devono pagare. Cominciamo un mese. Il 3 li porto vai da, non mi faccio fare i conti, vai, ma da Righesh. Ma di quello che la fa? L'ufficio, da Ida, del porto, da la nostra segretaria. Eh? E vai con Righesh. Ehi, si può tenere un conto che ci mezzi, da un pochettino respiro. Se no questo ragazzo che cosa l'ha pagato, ora da ammazzarmi. Che mi sei faccia dalla macchina, porco Dio, cazzo, ma scusa, non devo bestemmiare, ma stavo, cazzo, ero nervoso, ma bestemmia dalle parti, non mi bacia più la macchina. Il coso, se sono di giri, poi ci ho ragionato su, ci ho pensato pure io, ho detto, oh, che ce ne sono di giri, battuto. Bruciato, l'ho chiamato il caracchino, è morto che so caro baracchino, ci ho pensato bene da quello. E la spesa, no? 50 ragli di varia, ma quando sono così, che hanno tanti anni le macchine, danno sempre un problema. Lui, io non lo so perché c'avevo il 127, che era così, ne facevo una cosa, ci faceva l'asta, alla fine a giubilea della giubersata. Cosa vuoi, purtroppo. Ma non guarda che costano pochi pesi, però, mamma. Sì, adesso devo fare... Devo cambiare una tappa del motore, perché fa un tic-tac, ed era quella lì, era, usando lì la farda. Oh, chi si occupava i denti? Ma capi qua! Dove vuoi andare? Se fasciata, cosa devo fare? Sono quelle piccole cosette che ti fanno uscire di testa. Adesso, prossima settimana, mi sistemo tutto. Se vuoi tu in mano, se c'è meglio tutto canto, facciamo Gandesi, Gandesici. E via, cioè faccio una bella manutenzione. Vabbè, ma adesso l'hai aggiustata il problema che hai avuto? Sì, l'ho aggiustata subito. Meno male. E come l'hai portata in officina? Cosa? Ho detto come l'hai portata in officina? Tutti gratis, ciò. Ho chiamato l'assistenza, mi hanno mandato a casa, è carregata. Nome e cognome. Ho chiamato il numero verde e sono venuto a pigliare mira. Allora, caro Trisi. Certo, se ce l'hai tu è così. Io ce l'ho dall'assicurazione. Dove va? E così è. Oh, sì, io ce l'ho dall'assicurazione più... Dove è? Sei uscito male. Scappa, dai che va a farmi la doccia. Dove è? Esatto. È uscito male, mi tutto a strappi e non si è compreso nulla di ciò che hai detto. Non sono uscito a strappi, e male sopramodulato. No, no, non è la sopramodulazione. Si è uscito prup. Ma che c'è qualcheduno vicino al canale nostro. Tu? Io non ne prendo splatter con questa palicchia, non è scelto. Ma io già la gente dice, forse il burro è attaccato al canale. Io guardate, non c'è nessuno, avanti di nuovo quanto... Andate a farsi la doccia. A farsi la doccia, andate. Io via. Io adesso vado a farmi un po' di funghi. E poi c'è un primo stagio, aglio, prendo il simbolo, c'è un po' di peperone, si può. E tira la campa. Sì, io invece ando a pigliarmi le mazziglia. Andiamo a perderla. Ci risentiamo già. Andiamo in ambito... Alle prossime. A risentirci. Dai della... Buona cena. Buone e tutto un ricco. E anche quelli che agli ascoltoni, quelli con gli orecchie grandi grandi. E alle cerebuco. Ci vedranci. Cappa cappa. Ciao ciao dottore. Buona cena anche a te quando la fai, dai. E non ti posticcare sempre. E purtroppo... Papà, devo pigliarli. Ma è la tua prima bottega. quelle sono quelle che prendo la mattina alle 8 e la sera alle 8. Ma io orario non ne ho, io quando ceno mi faccio l'insulina, mi misuro la glicemia, faccio l'insulina e poi prendo le pastine, la metformina e l'altra, come si chiama, è Psigdo, che contiene metformina anche quello. No, quelle le prendo dopo mangiato. Dopo mangiato, dopo un po', mi la bilo, mi sa, però quella del cuore e del coso del sangue, quelle devo prendere anche prima delle 8, 8 meno un quarto, meno 10, meno 5. Io penso che sia molto. Quella lì, la devo prendere così. Vabbè. Purtroppo siamo tutti in uscita, a una certa età ci pasticchiamo tutti. Io devo fare solo il policlinico, ma misurato, se posso, cosa mi ha misurato, intendi, i battiti veloci. Allora, ha pigliato e se cerchi un coso, un cardiologo. Vai nel bosco. Mi ha già dato già l'appuntamento per il prossimo anno. Perché quella che ti ha visitato non era un cardiologo? Era un cardiologo, però loro non ti possono assistere. Una, due, tre visite mi ha fatto. Vabbè, te l'ho detto che cardiaca c'hai, ti ho dato la pastiglia per rallentarti i battiti cardiaci, perché probabilmente c'è tachicardia, sono anche i pensieri, quando sei un megame di cose da fare, che stai correndo da una parte all'altra, queste cose te le fa venire, la tachicardia le fa venire queste cose, l'ansia. L'ansia mi veniva, un bel mi veniva, infatti io non mi veniva l'ansia, stavo male, sentivo i battiti del cuore, du. Come a tamburo Maria. Perché sembriamo fatti di ferro, però siamo come le macchine, no? A un certo punto poi ci guastiamo anche noi. Purtroppo sì, è così, vabbè, purtroppo sì, queste sono, ne devo prendere due al giorno di quelle, e poi ne ho una da, le battaglie da fate bisciare, mangiare. No, io ho l'aritmia cardiaca, praticamente il cuore batte normalmente, c'è un certo punto che fa tutto e poi di nuovo si riprende. Questa aritmia devo prendere una pastiglia la mattina. A me me ne ha dato una la mattina alle 8 e una alle 8 di sera. Si registrano ricorrenti bisogni. Io faccio la battiglia per globulizzazione del sangue. E un anticoagulante. Che ti aiuta a fare la circolazione del sangue più veloce. E infatti se ti fai un taglio se alzi di lui scendi l'usato. Passa lì, quando mi lavai ma mi sono tagliato tetto e poco di sangue che mi uscito, non riesci a filmarlo, no? Perché stai prendendo l'anticoagulante e occhio, perché questi anticoagulanti fanno male a una cosa e fanno male all'altra. Capito, ci mette di più a cicatrizzarsi le ferite, è così, perché il sangue praticamente è più fluido, capito, e quindi riesce di più. No, già c'ho i cosi che metto e si ferma subito il sangue, ma ce l'ho quel coso lì, che friggi un bel friggiburo, certo, e più quando mi taglio le cose che ci mette parecchio, allora sto usando il cicatrice per chiudersi subito. Ma quelle pietre per la mamma, quelle che si, quelli stick che ci sono, perché io non ne ho più trovato, non so neanche di livello. Sai dove lo trovi? È la farmacia di della Cona, di Viale Pornatorice. Che paga. Come si chiamano? Facebook, non la metto più, basta lì, non lo siti per il dopo barba, per il taglio, basta di lì. E il cucina per i cucini, non me la metto mai, come si chiama? Vabbè, già ti capisci lo stesso, interessante, ecco. Vabbè, tu là, ti lascio andare, se no tu rimasi non ti rimigli giusto. Io il cane l'ho già portato, quindi posso anche trattenere ancora un po', ma se tu non puoi, vai. Fa due minuti mi lascia con il biglietto. Quindi ci risentiamo, dai, alle prossime. Ciao, ciao Tore, buona serata. Ciao. Chi è? Non ti piace, dai. Ah, si capisce nulla, tu non rende radio. Si sente solo bro, non si comprende che sia musica, non si capisce nemmeno che si sta suonando. Sembra casino. Sta per un microfono a mille che hai detto, proviamo in occhio, va a passare. Oh, la musica del diavolo è adeguata a lui questa musica. Fare la musica di Rudy Gaud. Organizzai tu? Organizzai il gioco. Io forse mi intendo più te di musica. Che ne ho ascoltato e ne ho cantato. Cioè, è questione di gusti, Anto. Non è che non ne so. A me non piacciono, quindi. Vabbè, io ti dico un po' particolare. Poi mi ascolto anche la musica normale. Io ascolto un po' di tutto. Però a me questa mi piace perché mi dà la carica mille. Poi con l'impianto a bomba. È ben bello. Anche tu ci mancavi. Ti piace la musica fuori di gatto. A me no, no, purtroppo mi piace un certo tipo di musica. Poi con l'impianto a bomba, sai come cavolo rende. Oh yeah. Quando in piazza un giorno l'ho messa un cazzo mi addocco. Saranno contenti quelli che abitano nel palazzo tuo. No, oh, una bomba in piazza proprio, in piazza, l'abbiamo messa. A Tanghero, che c'è quel giocato, chi ci crederà? Vabbè, chi ci crederà? Luigi Bargiolo, però è una persona accolta, cioè. Però a lui piace questo tipo di musica, l'ha messa. Capito, quella che c'è per andare alla passeggiata lì, sulla destra. Sono due tempi, due tempi metà, proprio con la batteria a bomba. Tremava tutto, che poi l'abbiamo provato, cioè quando tu provi l'impianto, dopo che hai fatto i segnali, cioè, diciamo i segnali rock, cioè, e fanno dei versi un po' particolari, devono testare l'impianto, si deve allineare. Quando tu modo, non so se ti è capitato che sei detto poi il sub, cioè tutte quelle cose lì che sembra che si, cioè, ma non sono forte pure. Vabbè, con le K2 fa perché devono allinearsi tutte le casse. Cazzo, dopo quando era allineato, per vedere se l'impianto andava fuori, a bocca a bomba, il giù greco mio. Poi va in distorsione, se non è allineato bene. Vabbè, sono musiche particolari. Io ascolto quasi tutti i tipi di musica, tranne quella lirica che non mi piace. Quella hard rock l'ascolto perché mi piace, tipo gli AC/DC mi piacciono, però quella metal no, non mi è piaciuta. pianti? La distorsione non esiste, non è uno stereo di casa. Quegli impianti quando non suonano è perché no, cioè non sono allineati, uno la senti di meno, uno la senti di più, ci vanno anche l'apparecchiatura, c'è un programma, c'è, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è un programma che ti dice se sono allineate, capito? Non è un impianto che va in distorsione assolutamente. O chi quelli più generali più spingono. Dici che andare a bomba spingono piatti di cosa amare, praticamente hanno un limite, hanno che non vanno oltre, oltre che sennò magari spacchi con quanto c'è, ma i finali non ti fanno andare oltre, capito? Però ti posso dire che quando sono a bomba lì ci travagliano davvero. Se, però se tu non fai l'allineamento col programma suo, non è facile, no? Ci vuole un programma al computer per allinearti tutto l'impianto. Non è così facile. E vabbè, ci sarà chi lo sa fare. Sto studiando io un po'. Per fare quelle cose. Ma bisogna fare i corsi, mi pare, no? Lo voglio fare, voglio andare fuori, voglio andare a tua casa. Perché non il tempo no. Volevo fare un corso alla DMB, volevo fare. A Toccarda. Perché il tempo non me lo consente, no, non posso farlo. Se non l'avrei già fatto i corsi o. Piace molto quell'audio, piace molto a me l'audio, tutta quella roba. Mica se sto cane in Germania, me. Tu puoi andare in Germania, lascia un bicicletta su. Non l'ho, ti ho detto, non lo posso fare, se no l'avrei fatto. Ogni volta che ti chiamano puoi andare a lavorare in grandi aziende, ogni volta che ti chiamano c'è il viaggio pagato, mi pare che sono 200 euro al giorno. No, mi cucino, un tecnico di quei livelli è pagato bene. Beh, sono specializzati, tanto è normale che non li vengono pagati bene. Sono però specializzati, che sono specializzati in quel ramo lì, però al suo del ramo. I tecnici hanno quel ramo lì e si specializzano su quelle cose. Per specializzarsi ci saranno anche soldi da mettere. Se non avessi avuto Gabriele, se fossi stato solo, sarei andato a fare i corsi di specializzazione. Il mio sogno sarebbe stato. Anche perché ho 40 anni, sono ancora in tempo, a fare i corsi di specializzazione su questa roba qua. Conoscere l'Inter, cioè sarei andato a fare i corsi con la Digicon, cioè molti con la Yamaha, molti produttori anche di mixer, capito? Ponici, oddio, già da qualche anno sarei stato un grande professionista, solo che non ho potuto farlo per via dei soldi, per via della famiglia, o scegli una cosa o scegli l'altra. Comunque sarei stato un grandissimo tecnico, sarei stato. Perché il mio sogno è diventare un grande tecnico, capito? E anche mai dire mai, magari troverai il modo per farlo lo stesso, ma non si può dire che non puoi. Diciamo che se c'è la possibilità puoi farlo. Aspettiamo che cresca un po' Gabriele, ma perché ti chiamano? Ti chiamano tutti e poi la prestazione. Allora, un tecnico specializzato fonico solo prende 250 euro al giorno. Cioè, solo per fare il fonico. Solo per fare il fonico o per. Cioè, quelli che taranno l'impianto sono così, viaggiano a quei prezzi. 250 e 300 euro al giorno. Cioè quello di Musical Box che è venuto a farci vedere, siccome quel di Invinere non l'avevo mai avuto per fare già la mia, con l'impianto lì, per fare quella roba lì è venuto un tecnico da fuori, quello mi pare che vediamo a 300 euro al giorno, esatto, di viaggio e tutto, però deve stare in giro. E vabbè, fa vedere i funzionamenti dei mixer eccetera. E vabbè, è un lavoro, una scelta sua, ma magari lo fa per un periodo, poi non lo fa più. Infatti quel periodo si fa il gruzzoletto. Quello lì era un ingegnere di... cioè, lui sarava l'impianto. Ci diceva a noi come non lo conoscevamo, è arrivato da fuori con l'impianto. Ci ha detto come eravamo in tre facendo l'audio, come dovevamo cablare tutto, perché eravamo io, Giacomo, Giovannannine e questo qua, di Musical Box. E l'abbiamo fatto tutto noi. Cioè, l'impianto l'abbiamo cablato noi, io e Giacomo e lui. Ce l'abbiamo fatto in tre, abbiamo fatto un culo una notte a smontare tutto, che lascia stare, va. Ma perché c'è due giornali, uno la allora, raga, alla gente che porta c'è la voce che facciamo Max Pezzali. E forse io do la disponibilità per Capodanno. Lavoro anch'io. Io a Giannalani l'ho visto il concerto, c'ero anch'io. Ma voi restate sempre sul palco quando sta cantando. Cosa? Voi restate sempre dietro il palco, no, quando canta. Io ho visto tutto, cioè ero nello staff, vero? Logicamente ero il tecnico. Cioè, ero il tecnico che lavorava lì. Io l'ho vista come da qua lì. Io l'ho vista tutto in faccia a Giannalani. E chi cavolo l'ha fatto di lui? Dove eravamo? Che ne so, ma questi cantanti qua di solito ce li ci portano tutto da fuori, c'hanno il camion grosso e ci portano tutta la attrezzatura, non lo so, magari lui ha fatto così perché li ha convenuto così, però solitamente questi grandi cantanti tipo Vasco Rossi e Romagnoli c'hanno l'autotreno, il cazzo che carica tutto, c'ha strumentazione e tutto. No, allora, noi lavoriamo, mia madre gli venga, con la mezza produzione, capito? Praticamente, noi mettiamo l'audio, le luci, tutto l'impianto luci, e loro ci portano strumenti, tutto quello che riguarda il backline, tutte queste cose qua. Capito? Ah, ecco. Dentro in sala. Va bene, là, devo lasciare. Ok. Va bene, tu, ci sentiamo, dai, buona serata. Ciao, ciao.